Una pezza a caso. Con chi sei oggi? Oggi sono con una illustre ospitessa che ci parlerà di una cosa molto molto particolare che non è arte, ma in realtà è anche arte secondo me e credo anche secondo lei. Sono con Maria Elisa Marchiani, che ha un lavoro molto molto interessante sul corpo che si chiama Mio Equilibrio. Adesso io, siccome è un po' di tempo che non vengo in radio e c'era una cosa che mi piaceva molto fare, provo a vedere se funziona. Mio Equilibrio. Dal greco mais mios, muscolo. Primo elemento di parole composte della terminologia scientifica che significa muscolo o indica relazione con i muscoli. Hai capito? Ho capito. Ecco, sì. Io sono interessata a questo tema perché tu sai che quest'anno come supplente insegno anatomia artistica, che pur sempre è anatomia. Mm-hmm. E quindi eccoci qua con Maria Elisa Marchiani. Ciao a tutti, sono molto felice di essere qua e anche con te, Chiara. Noi ci conosciamo da molti anni, io e Elisa, perché da quanti anni è che faccio questo lavoro con te? Tanti, mi sa. Ma quanti proviamo più a dirne? Più di dieci. Sì. E quindi ecco, Maria Elisa Marchiani, che ha questo lavoro sul corpo, Mio Equilibrio, come avete capito, ha a che vedere con il muscolo, con i muscoli del nostro corpo, ed è un lavoro di riequilibrio posturale. Sì, esatto. Diciamo che è un lavoro che va a riequilibrare le nostre fasce muscolari e quindi ridà la possibilità a tutto il corpo di ritornare maggiormente in asse. È un lavoro che nasce come integrazione nel 2012. Quindi io ho iniziato praticamente come, perché sono più di 10 anni, quindi 2012 io più credo, o meno secondo siamo, me siamo partite insieme. Sì, siamo partite cioè insieme. Io lo dico a tutti gli ascoltatori a cui interessano molto i fatti miei, come sua paziente, ecco. Se ti domandavi, eravamo in conflitto di interessi. Esatto, no, come paziente sono stata una delle sue prime allieve. Esatto, E quindi nel 2012 cosa è capitato? E capita che a un certo punto nel tempo mi sono accorta che avevo proprio bisogno di integrare le varie formazioni che avevo fatto nella mia vita, dalla psicomotricità all'antiginnastica, alla naturopatia e alla biodanza, e quindi a un certo punto mi sono trovata di fronte a tutte queste formazioni, avevo bisogno di integrarle, di creare un'opera unica, diciamo. Ecco, fantastico. Quindi di dipingere un unico quadro con tutti questi colori, se vogliamo rimanere in tema d'arte, perché poi alla fine ogni sessione è un'arte, no? Cioè è una forma d'arte ogni sessione. Io quando mi sdraio non so mai cosa andrò a fare, quello che emerge viene dal contatto con voi, dall'ascolto del vostro sentire e delle vostre parole, ma anche da quello che passa non detto, no? Diciamo nel gruppo. Adesso nel Stefano gruppo. Sarà incuriosito perché abbiamo detto si sdraiati, quindi bisognerà un attimo capire perché ci si sdraia. Perché in vi sdraiate? Perché ci Ve lo sdraiamo? Stavo giusto per chiedere. Perché ci sdraiamo? Ci sdraiamo perché la terra ci serve proprio per entrare in contatto con il nostro corpo, con la nostra schiena prevalentemente, no? E ci permette di percepire quelle parti del corpo che normalmente in piedi percepiamo poco, se non quando ci fanno male. Invece sdraiati a terra possiamo proprio sentire tutta la colonna vertebrale, le scapole, il nostro bacino, le gambe, e questo ci permette di entrare in contatto con la forma anche della nostra colonna vertebrale, della nostra schiena, e sentire come stiamo in quel momento. Poi il lavoro ci porterà ad una modifica, no? E questo è la parte, diciamo, più affascinante del lavoro, cioè il fatto che il corpo può cambiare. Bella questa idea del corpo che cambia. C'era anche una canzone di Piero Pelù, però non l'ho messa nella chiavetta, quindi adesso non ce la possiamo ascoltare. E comunque non abbiamo i pezzi della chiavetta, per cui quello che possiamo ascoltarci è il messaggio di oggi di Marco Roma. Ah, bene. Siete pronti? Ci sono. Buongiorno. Fino ad oggi non ho più ascoltato le frasi scritte su un giornale. Fino ad oggi non ho portato le parole scritte in mezzo al mare. Io ci sarò da Marco Roma. Boom boom. Buongiorno. Bellissimo quello di oggi. Ma fantastico, Marco Roma è in grande forma, non vi abbandona mai praticamente. Dopodiché ho degli audio, fammi un po' vedere. Ah no, questo è quello di Fedra. Ah no, sì, di Fedra, di Mia, che salutiamo. Ciao Mia, Mia mi ha mandato un vocale, ma non so se vuoi fare sentire un pezzettino della sua testimonianza dall'aeroporto. Forse è volata proprio sulla nostra testa attraverso momento. Uno di questi simpatici Boeing. Perché invece c'è un vocale da 10 secondi, perché simpaticamente io adesso mi sono mandato quello che tu mi hai mandato con WeTransfer, me lo sono mandato su WhatsApp. Però WhatsApp molto simpaticamente toglie i titoli, per cui non so più che cos'è. Va bene, è da 10 secondi. Quello da 10 penso secondi. Penso di sapere che cos'è. Posso mandare quello? Puoi mandarlo. Vado. Fantastico gong. Questo lo teniamo un attimo in sospeso e lo usiamo come stacchetto, visto che è l'unico vocale che ha. L'unico, no, ce n'è un altro da 2,56 e uno da 3,17. E che quindi, difficile, vabbè, adesso sapere qual è quale, capito? Va bene, ma non c'è un ordine troppo preciso. Ah no, aspetta, quello da 2,56 è il primo, ok. Adesso lo metto come sottofondo. Ma non lo so, proviamo a vedere. Non credo che sia. No, è so. Il primo, aspetta, però non va. Okay, non va. Non va. Ci siamo un attimo incartati nella trasmissione. La nostra, ecco, no, direi che questo no, magari lo mandiamo fra un attimo. Non era questo. Allora, Elisa, grandi, che si è preparata tantissimo, pensava di venire a una trasmissione seria, capito? E invece è stata buttata così. Pensavo che l'avessi, cioè non gliel'avevo detto. Ho provato a spiegarglielo, okay. Le ho anche imposto di ascoltare delle puntate precedenti, perché ero appunto terrorizzata da questo effetto delusione, no? Però siccome lei è una persona che invece non lavora come lavori come no, tu. Come ok, pensavo che dicessi come lavoriamo noi, invece come lavoro io. Come lavori tu. Ok, vabbè, mi sono tirata fuori. E vai avanti tu con Elisa. Mm-hmm. No, scherzo, dico, adesso metto una canzone così metto a posto i file e riusciamo a... Comunque se... volevo dire questa cosa per preludere allo stacco musicale, che spero sarà della tua Beniamina UK. Non è UK, no, ma no. Comunque Jenny Owen Young, ecco, americana. Grazie. Perfetto, okay. Perché io essendo che manco un po' della trasmissione mi sfuggono questi particolari. Che invece sai che non ho proprio niente di Jenny Owen Young. Beh, fa lo stesso, mandiamo anche qualcos'altro. Comunque no, perché la musica è una parte importante del lavoro di Elisa, volevo dire questa cosa, sì, prima okay. Di una qualsiasi tipo di musica, poi Elisa non sappiamo cosa manderai, ci dirà se è il tipo di musica che ora tu mandi quello che serve è per un gran il pezzo. Mio equilibrio l'ho scoperto oggi, si va intitola Be My Angel di Mazzy Star. E vai, senti un po'. Sentiamolo. No, no, non va, non ci posso. Ma no, ma cosa hai combinato? Non ci posso credere, non allora, va. Allora Stefano, io credo che tu abbia bisogno di una seduta di riequilibrio. Sì. Riequilibrio radiofonico. No, essere... ma guarda, cavoli, non vanno un sacco di questi file. Non vanno. Perché devi sapere che il player di questa radio è un po' capriccioso. Diciamo capriccioso. È un po' capriccioso. Diciamo che è capriccioso. Va bene, ma noi... E dunque, no. Cavoli, non ne suona quasi. Allora, io direi che mentre tu ti lambichi il cervello su come fare per questa questione tecnica, potremmo intanto riprendere il discorso con Elisa sul lavoro. Mentre io metto la musica? Se metti la musica... No, metto la musica. Allora, mettila. Ecco. È partita, ce l'hai fatta. Forse va bene questa. Meno male. Mi può andare bene. Cadel yenei kai altera. இதயம் தான் சரிந்தது உன்னிடமில்ல Swasme கைகள் என்னை கையால் தள்ள என்னை சொல்லி என்னை சொல்லு காதல் என்னை கையால் தள்ள இதயம் தான் சரிந்தது வாசமே வாசமே வாசமே வாசமே என்ன சொல்லு என்னை சொல்லு கண்கள் ரெண்டில் கண்கள் செல்லு சிறகுகள் முளைக்குது மனசுக்குள் மெல்ல ஜென்றல் காற்றாகிவா ஜரிகை பூவாகிவா மின்னல் மழையாகிவா உயிரின் மூச்சாகிவா அறிவாக காதல் வர கண்டே இயற்கை கோளாரில் இயங்கிய என்னை செயற்கை கோளாக உன்னை சுற்ற வைத்தாய் அணுசக்தி பார்வையில் உயிர் சக்தி தந்தாய் Dicevo che una volta mi portavo il computer da casa per evitare il delirio del fantastico sistema operativo di Radio Città Fujiko che, essendo open source e gratuito per tutti, è fantastico. È fantastico. Però ogni tanto, tipo WeTransfer non va. Una volta si stava meglio. Si stava meglio una quando volta... si stava peggio. No, si stava meglio quando venivano i cantori direttamente con la chitarra. Eh certo, ma adesso Elisa ci farà una seduta in diretta, giusto? Giusto. Ovvio. Ottimo. E quindi eccoci qua. Vi metto l'altro. Mettici un altro gong. Un altro gong? Un altro gong per ricominciare a parlare di mio equilibrio e adesso ovviamente ci interromperà sul più bello perché sì, succede sempre così in questa realtà. Fai così, non mettere il gong perché andiamo avanti con la trasmissione. Magari Elisa che tu spiegassi un po' come funziona questo lavoro, diciamo a varie fasi, no? Una seduta tipica. Sì, allora intanto volevo solo dire che mio equilibrio, mio vuol dire muscolo, vero? Certo, ma vuol dire certo. Anche mio, no? Nel senso che ha a che fare proprio con la parte più emotiva, più psichica anche della persona. Io ho scoperto, studiando il collegamento tra il sistema nervoso e i muscoli e le articolazioni, no? Che i muscoli e il cuore derivano dallo stesso foglietto embrionale, il mesoderma, no? Esatto. E poi, lavorando con le persone sui muscoli, comunque escono le emozioni, esce il sentire del cuore anche, no? Quindi è un viaggio quando si lavora sul corpo. Sì, è un viaggio all'interno di se di stessi. Noi stessi, io no? Quindi mio anche questo posso confermare. Sì, anzi, scusami che non ho dimenticato di dirlo all'inizio, però è un bellissimo gioco di parole che hai trovato perché intercetta una serie di significati all'interno di una parola molto semplice, poi, no? Sì, in effetti è semplicissimo. È bello, sì. Ma le cose geniali sono sempre all'insegna delle semplicità. E quindi quando uno si immerge in questo lavoro che cosa succede? Allora, intanto è un lavoro prevalentemente che si fa in gruppo. Cioè la magia è quella del gruppo, la forza è proprio quella del gruppo. Si possono fare anche sedute individuali, ma nel gruppo c'è una parte prima di condivisione breve, insomma, in cui ognuno può dire come si sente, come sta il corpo o anche solo l'emozione che sente in quel momento. E a me serve questo anche per capire il gruppo come sta e per capire un po' il lavoro da, da fare. Quindi non è tutto preordinato, non tu è tutto vai anche in parte improvvisando, diciamo. Improvvisando forse no, però insomma ascolti un po' le persone che hai di fronte prima di decidere che indirizzo dare al lavoro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Una volta che conosci bene il lavoro, la tecnica, no, puoi dare spazio di più alla creatività. All'inizio sei un po' solo sulla tecnica, dopo piano piano c'è questo, questa seduta che nasce dalle persone, dalle esigenze stesse delle persone. Che sono esigenze di tipo più vario, perché più chi vario è che no, a parte... diciamo che la tipica persona che viene da me è una persona che vuole lavorare sulla prevenzione rispetto a tutte quelle che sono le problematiche mie osteoarticolari. Io invece sono arrivata che era già troppo tardi. Era già troppo tardi. Non ho lavorato sulla prevenzione. Stefano, fai tesoro di questi consigli. Meglio lavorare in prevenzione. Esatto. Ecco, però arrivano anche persone insomma, che hanno provato tutto ormai, oppure persone che sono mandate da dei medici o da qualcuno insomma che conosco e che ha già fatto il lavoro, e, ma anche per chi soffre di ansia, stress in un momento difficile, oppure semplicemente per il piacere di ascoltare il corpo e di scioglierlo, punto, no? Io posso dire come sono arrivata io, che come sei arrivata tu? Sono arrivata grazie tutto sommato, cioè ci tengo a dire questa cosa perché è una nostra ex collega di accademia, grazie a Milly Romano per una serie di Milly Romano è un'artista di Bologna che ha insegnato in accademia tanti anni e con cui io all'epoca studiavo, ero una sua studentessa, e durante una di queste feste che lei organizzava per eventi artistici, lei ha lavorato molto sul territorio di Pianoro facendo progetti di arte pubblica, e io a un certo punto avevo un problema che si stava trascinando ma che non avevo identificato, non riesco più a camminare. Per fortuna tra i suoi diciamo amici, insomma gli invitati, c'era Mazzanti, che è un agopuntore molto noto a Bologna, che mi diagnosticò subito questa ernia espulsa, ahimè. E però poi dopo avermi trattato lui con agopuntura mi indirizzò da Elisa, con cui all'epoca condividevi lo studio. Sì, giusto? Lavoravamo nello stesso studio che poi adesso è il centro medico Eubius, dove lavoro ancora. Sì, esatto, sì. Perché tu hai studi in diversi posti della città, punti della città, giusto? Prevalentemente il centro medico Eubius, poi anche a Pianoro dove ho anche uno studio mio. Poi lavoro anche a Mesola, dove sono nata, la mia città del cuore. E il mio poi paese del cuore. Il tuo paese del cuore, dove organizzi degli stage, esatto. Delle cose immersive alle quali io non ho mai partecipato, è bacchettata sulle dita. Però so che sono molto molto graditi dal, diciamo, dal gruppo. Poi non è mai troppo tardi. No, certo, infatti si può sempre fare in futuro. Come siamo messi, Stefano, con i tempi? Fra un po', perché qua io vedo un orologino che scorre e sono un po' in paranoia già per la pubblicità. Ma no, mancano ancora 5 minuti. Oh, mamma mia, manca un sacchissimo di tempo. Volevi un'altra canzone? Volevi che ti alzassi questa? Che cos'è sta? Questa è il mio sottofondo preferito, perché quando si fanno queste sedute in realtà succedono tante cose e la musica uno degli elementi fondamentali, perché aiuta un certo tipo di musica che ha un po' un effetto. Questa io l'ho scelta perché su di me e poi è molto soggettivo, perché alcuni del gruppo invece la odiano, ogni tanto non mi mettere più. Io sono più amico dei tuoi amici, ne ero quasi certa. No, ma guarda, non è tanto la musica in sé, sono le cornamuse. Io, se c'è uno strumento che odio, sono le cornamuse. Ah, ho capito. Non so, su di me fa un effetto, almeno in quel contesto, nel contesto dell'essere estesi sul tappetino a concentrarsi sul corpo, tipo ASMR, sai, i suoni. Volevo salutare la mia amica Katie che ci ascolta da Zurigo. Ciao Katie. Ma forse ci stanno ascoltando anche più persone del solito, perché Elisa ha un folto gruppo di follower che mi hanno chiesto come facciamo ad ascoltare la trasmissione. Potete messaggiare o mandare un vocale al 333 180 94 94. Esatto, quindi. Assolutamente. Sì. Scriveteci e Stefano vi risponderà. Bene, quindi Stefano, sei pronto per fare una delle sedute di Mio Equilibrio? No. No? Cioè, no. Devo dire che se posso essere sincero, per il momento no. Per il momento adesso, no. Adesso magari nella seconda parte mi convincerete. Ti convinceremo. Ma sì, facciamo così. Facciamo così. Spaziale. Ma siamo già di nuovo in onda. Siamo già di nuovo in onda. Con la tua musica preferita, la cornamusa, il tuo strumento d'elezione. Mm-hmm. Sì, non vedo l'ora di andare in Scozia ad ascoltarlo dal vivo. Bene, allora adesso per chi non era collegato o si è distratto nella prima parte, dobbiamo ripetere tutto perché Stefano non ha ascoltato, perché era tutto preso dalla questione dei file. Dalla questione dei file. E comunque quindi, me ne manca uno, ma tutti gli altri ce li ho. Bene, dai, questo ci conforta, anche perché Elisa ha registrato per noi un pezzettino di una seduta tipo. Okay. Per cui adesso non ricordo quanto, 2 minuti e 35, qualcosa così, per farsi un'idea di come funziona, ma magari ci puoi spiegare un po' meglio quali sono anche gli strumenti, perché ok, siamo distesi sul tappetino e poi cosa succede? E poi cosa succede, giustamente, no? Abbiamo degli strumenti che sono delle palline. Io ne ho una qua tra le mani, bellissima, blu, che poi fotograferemo. Ok. È di gomma piuma ed è tarata con la consistenza giusta per lavorare sulle nostre fasce. E questa palla di gomma piuma crea un massaggio profondo sui nostri muscoli e crea anche un punto fisso da cui parte l'allungamento di tutta la catena muscolare che stiamo lavorando, in modo da non creare compensi da altre parti. Perché altrimenti quando uno si stira da una parte la coperta è corta, tende ad accorciarsi un po' dall'altra, capito? I muscoli sono come un vestito, diciamo. Quando è corto, ovviamente la parte ossea si adatta dentro a questo vestito, quindi con la palla riusciamo a creare spazio, il giusto spazio, in modo che le nostre vertebre, le nostre articolazioni tornino nella loro posizione fisiologica. Quindi la palla è molto importante nel nostro lavoro, non è un optional, ecco. Sì, sì, è proprio l'elemento protagonista, sì. A queste simpatiche palline. E come viene proposto anche l'esercizio in sé, perché è un esercizio sempre basato sull'ascolto, che segue il nostro respiro, quindi non è un esercizio veloce. A volte le persone l'hanno chiamata anche la ginnastica dell'essere, no? Nel senso che entri proprio in contatto col ritmo del cuore, con il respiro, e piano piano allenti le fasce e crei spazio nel torace, nel tuo bacino, nella colonna. Insomma, ci si riprende un po' la forma. Diciamo che fa molto bene. Sì, sì. Si riprende la forma, diciamo, una forma un po' più armoniosa e un pochino più rilassata. Dunque, vogliamo ascoltarlo? Proviamo a vedere questo micro assaggio di un inizio di seduta. Il mixing è un po' così, perché ormai stiamo suonando già, da WhatsApp. È così. Possiamo sdraiarci sul nostro tappetino a pancia in su, ci sdraiamo, rilassiamo le nostre braccia, rilassiamo le nostre gambe, ci abbandoniamo sul tappetino, sentendo che la terra ci può sostenere. Noi possiamo abbandonarci completamente, lasciare andare i pesi, le tensioni, le responsabilità, lo stress. Possiamo lasciarci proprio andare. Rilassiamo la nostra mandibola, lasciamo spazio alla nostra lingua, rilassiamo le nostre scapole sul tappetino. La nostra colonna vertebrale si rilassa e si distende sul tappetino, le nostre anche, le nostre ginocchia, le nostre caviglie possono lasciarsi andare. Poi andrò a portare le mie braccia verso il soffitto con i palmi delle mani che si guardano e andrò ad allungare verso il soffitto prima una spalla e poi l'altra. E e ascolto, sento se c'è una spalla che percepisco più appoggiata rispetto all'altra. Sento se c'è una spalla più fluida dell'altra nell'andare verso il soffitto, più sciolta e una più contratta, o se le sento uguali. E poi vado a fare un movimento circolare con i miei polsi in un senso e nell'altro. Sento i miei polsi, le mie spalle, e poi lentamente scendo giù con le mie braccia, le rilasso a terra e provo a muovere lentamente il mio collo per sentire le cervicali come si muovono, quanto i miei muscoli permettono alle mie vertebre di muoversi. Posso portare il mento verso il basso e ritornare indietro. E mi ascolto, sento se c'è tensione del collo, nella zona tra le scapole, quando porto il mento verso il basso. E poi lentamente giro la testa verso destra, come per avvicinare la guancia al pavimento, e poi piano piano verso sinistra. Hai capito? Ti sei immerso. Naturalmente adesso tutti gli ascoltatori erano sul tappetino. No, infatti mi stava quasi venendo la voglia di fare sta cosa qua. Cioè proprio di... che mi sembra. Questo l'angolo della menzione. Così. Io avevo avvertito Elisa che sarebbero state delle interruzioni un po' brutali. Perché anche questa settimana c'è un po' di roba, tipo domani 30 maggio alle 17:30 Essere Noi, realizzata dagli studenti del liceo artistico Arcangeli di Bologna. Essere Noi si presenta come uno sguardo ravvicinato al vasto mondo dell'adolescenza, ne indaga le ansie, le preoccupazioni, ma anche la vita sociale e il confronto con i genitori. Questa riflessione allo specchio ha generato opere di natura diversa che raccontano l'essere adolescenti nella vita di tutti i giorni, tra le difficoltà e le peculiarità di ciascuno. La mostra inaugura martedì 30 maggio, che è domani alle 17:30, e rimane aperta da mercoledì 31 fino a domenica 11 giugno. Questo è il Dipartimento Educativo del Mambo, in via Don Menzoni 14 a Bologna. Sempre martedì, che è sempre domani, a Palazzo Vizzani, Alchemilla presenta in collaborazione con Slug il film manifesto della mostra Tu mi chiami a compiere un atto d'amore, realizzato dalla magnifica filmmaker e critica d'arte Veronica Santi. Presente alla proiezione, insieme al curatore, all'artista e agli artisti. Questo è domani alle 21 ad Alchemilla, Palazzo Vizzani, in via Santo Stefano 43 a Bologna. Poi, mercoledì in sala conferenze al Mambo, abbiamo la presentazione del libro Snaturamenti dell'artista collettivo Flatform, attivo nel campo delle immagini in movimento con sperimentazioni al confine tra arte contemporanea e cinema. Ideato e curato da Giuliana Prucca, il volume pubblicato da Avarie e Lightcone Editions di Paris. E questo è al Mambo in via Don Menzoni 14 a Bologna. Sempre mercoledì 31 maggio alle ore 21 abbiamo Michelangelo Pistoletto, artista nazionale protagonista dell'arte povera, che al teatro Laura Betti alle ore 21 presenterà il suo ultimo libro La formula della creazione insieme con Alessandro Bergonzoni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. L'evento rientra nel calendario Casalecchiese del Maggio dei Libri, organizzato da Casalecchio delle Culture in collaborazione col Teatro Comunale Laura Betti e Città dell'Arte Fondazione Pistoletto. Questo è al Teatro Comunale, appunto, Laura Betti, in Piazza del Popolo 1 a Casalecchio di Reno, il 31 maggio alle ore 21. Poi giovedì 1 giugno alle ore 18 abbiamo una nuova mostra nella Project Room del Mambo. Dunque, la mostra si chiama Muna Massi Bologna Street 173, un viaggio a ritroso, congressi e festival eritrei a Bologna, a cura di Francesca Verga con Archive Ensemble. e inaugura appunto il 1° giugno alle 18 con la performance collettiva Uroboro e rimane aperta dal 2 giugno al 10 settembre. Il progetto riattiva la memoria personale dell'artista e l'archivio storico e iconografico dei congressi e festival eritrei che si sono tenuti a Bologna ininterrottamente dal 72 al 91. Frequentati dalle comunità diasporiche eritree provenienti da tutto il mondo, i festival si sono collocati in prima linea per supportare la lotta armata inaugurata nel 1961 per l'indipendenza dell'Eritrea dall'Etiopia. Questo è al Mambo, il 1° giugno alle 18 in via Domenzoni 14 a Bologna, naturalmente. Quindi succedono sempre un sacco di cose, come al solito, tutte le settimane. Adesso di che solito di giovedì tendono a esserci tutte di giovedì, adesso invece sto giovedì ce n'è una sola. Ce n'è una sola, vabbè, insomma, perché meglio diluire. Avete qualcosa da aggiungere anche voi? No, io non ho niente da aggiungere, che è stato anche un titolo di un mio vecchio lavoro che feci tanti anni fa a casa della nostra collega Annalisa Cattani. Che salutiamo. E dunque non ho niente da aggiungere, niente aggiungo, però mentre leggevi tutta questa bella infilata di eventi mi è venuta un'idea, perché potremmo invitare, lancio questo, se ci ascolta, questa idea alla nostra amata Camilla di Alchemilla, perché mi viene in mente che Marinella Sanatore, che è un'artista piuttosto nota, no? Piuttosto nota diciamo, forse non tantissimo e non addetti ai lavori, però ha tante volte inserito nel proprio lavoro dei gruppi che facevano attività sul corpo. Lei ha un progetto sulla danza anche, e potremmo invitare Elisa, perché mi vedo queste sedute immersive all'interno della fantastico scenario di Alchemilla. Non so se questa cosa passerà, però ma sarebbe meraviglioso. Però io ci provo. Ci proviamo. Però ci proviamo, sì. Lo propongo come opera. Assolutamente. Sì. Ma a proposito di arte, scusate, non volevo è scappata la mano adesso che ha trovato i file, adesso che li ha trovati, no, esagero. Mixare con il player del WhatsApp di Radio Città Fujiko, devo dire che è abbastanza challenging. Sì, io guardando questo piccolo tablet che tu hai davanti a te, che non so esattamente cosa sia, sì, no, fra l'altro trasmette un senso di inquietudine da solo vedere. Sì, no, infatti, è abbastanza inquietante anche l'unto che c'è sul, ecco, allora, sul vetro, che fa sì che quando clicco non succede niente. No, ha perso il touch proprio. Esatto. Invece io stavo riflettendo su un'altra coincidenza della mia vita, che io tutte le persone che ho incontrato in ambienti diversi dall'arte, sì, nelle mie ex colleghe sono di quando lavoravo in azienda, vabbè, a parte questo, perché gli artisti sono antipatici, questo lo sappiamo bene, ma no, hanno figli che poi si iscrivono al liceo artistico, capito Pasquini? Ah. Cioè, quindi io non so, tutti i miei amici che non fanno arte hanno figli che vogliono fare il liceo artistico. Okay. No, ma in realtà di persone che vogliono fare il liceo artistico ce ne sono tantissime. Di solito i genitori glielo proibiscono. Allora, una di queste è il figlio di Elisa, che sì, mi ha appena detto durante la pausa, il figlio di Elisa che si chiama Leonardo. Quindi partiamo già col piede giusto. Esatto. E se vuole scrivere, tu sei d'accordo? Assolutamente sì. Ah, è stata un'apertura del cuore quando mi ha detto che voleva fare il liceo artistico. Ah, come avrei voluto averti come madre. E non solo tu, cioè, non solo sì, io, anche Ivana Spinelli, anche sì, tutti gli artisti, tantissimo, tutti noi artisti della nostra generazione, soprattutto, credo. Soprattutto quelli che non hanno fatto liceo artistico. Esatto. Perché mia madre mi ha detto: fai quello cacchio che ti pare. E io, naturalmente, sono andata a fare liceo artistico. Certo. Sono tra i privilegiati che non sono stati ostacolati. Esatto. Ma l'arte comunque entra un po' anche all'interno del lavoro di Elisa, perché non ci sono solo i tappetini, le palline e la fantastica voce di Elisa, che sai che il nostro intenditore musicale che ci segue da casa, certo, lui l'ha soprannominata The Voice. The Voice, come Frank Sinatra, perché questa voce, anche non tutti potrebbero fare questo lavoro, è una voce molto radiofonica, vero Stefano? Sono d'accordissimo. È fantastico. Infatti pensavo di sostituirvi. Beh, io sono già sostituita, capito? Mia stai attenta, perché ho portato questa serpe in seno. A proposito di Mia, ecco, carissima Chiara, ti mando un audio dall'aeroporto, quindi cioè tipo 5 minuti fa l'ha mandato. Sì. Adorerà il silenzio di sottofondo. e ovviamente ho aspettato l'ultimo momento per poterti mandare un contributo e adesso mi tocca farlo così. Ok. Quindi sarò estremamente breve. Sono brevissima. L'abbiamo è talmente breve che c'è, tu hai toccato tagliare. È bello, no? Mia è stato, cioè, Stefano a tagliare questa esatto, cosa. Ha mandato un vocale di 15 minuti in cui comincia dicendo che sarà breve. È stata breve. Comunque, se volete sentirlo tutto, potete. Da domani lo carico integralmente su www.coxospaziale.blogspot.com. Perfetto, questo per non far mancare niente a nessuno. Bene. Quindi dicevamo. Io ho mal di schiena, dove vado? Ecco. Da me, ovviamente. Dove vado? Cioè, fisicamente. Fisicamente. C'è un sito? C'è un sito che si chiama www.miequilibrio.it. Mm-hmm. Ci sono delle sedi dove si può venire, il centro medico Eubius in via Nerio 14, mm-hmm, il mio studio a Pianoro. E poi c'è anche la possibilità per gli ultra pigri come me di lavorare online, che questa è stata una mia idea durante i tempi del Covid. È stata una mia idea, perché Lisa non ci aveva pensato, ufficialmente suggerito io, perché non avrei potuto fermarmi, perché dopo è una droga, cioè, questa. E dunque tu non vieni a fare coxo spaziale per fare ginnastica online? Esattamente. Cioè, esattamente. Sono senza parole. Ah sì, perché questo gli ascoltatori non lo sanno, io faccio questo lavoro con Elisa il lunedì. Esatto, no, infatti ringraziamo Elisa che oggi ha preso il giorno di ferie, esatto, per venire a Coxo Spaziale, ma salutiamo per sempre Chiara Pergola. Sposterò il giorno, non... Chiara, assolutamente. No, visto che Coxo non è possibile spostarlo, vero Stefano? No, Coxo non è possibile spostarlo. Proviamo a meno che non mi danno una cattedra di pittura, che non succederà mai, Coxo rimarrà a lunedì. Vabbè, allora auguriamoci che ti diano una cattedra di pittura esclusivamente per questa ragione, ovviamente. Esattamente. No? Vabbè, ma a proposito di arte e di integrazione, all'interno di questo lavoro, dicevo, non ci sono solamente tappetini, palline e la voce di Elisa, ma ci sono anche altri componenti che arrivano anche un po' sporadicamente, a volte, diciamo, non proprio in tutte le sedute, ma in alcune particolari occasioni. Sì, c'è un lavoro di movimento corporeo e di espressione corporea che c'è ogni volta, no? Quando lavoriamo sul corpo, dopo sentiamo il nostro corpo e la sua fluidità grazie a delle musiche che cambiano a seconda del lavoro che abbiamo fatto a terra, e quindi lì abbiamo la possibilità di integrare il cambiamento strutturale nella parte motoria e quindi di memorizzare anche a livello cellulare i cambiamenti posturali che ci sono stati, perché se una persona ha le spalle chiuse, poi facendo il lavoro si aprono, poi nel movimento, nella camminata, nella danza che farà, che è una danza assolutamente che deriva da un movimento sentito, non è una danza con i passi, e potrà sentire questa apertura e il piacere di questa apertura, e lì ancori, no, la memoria cellulare del cambiamento strutturale. Questo è molto bello, perché la chiave è proprio sentire il piacere dell'apertura, no, del movimento. È bella questa cosa del piacere, perché è un lavoro che permette di concentrarsi sugli aspetti positivi invece di essere sempre portati a pensare al negativo, come spesso succede, come facciamo tutti noi artisti che ci lamentiamo sempre, no? Invece in questo modo si memorizzano le cose positive che succedono fuori, dentro di noi. Poi cambia lo stato d'animo, no? Anche. Sì, ma io completamente. Posso confermare questa cosa che quando adesso forse più nelle sedute in presenza, devo ammettere questo fatto, che in quelle online c'è una differenza. A volte io sono arrivata a fare la seduta per questioni esclusivamente posturali e mi sono trovata poi durante la seduta a risolvere anche dei problemi che mi assillavano e per i quali non trovavo la soluzione, no? Come mi comporto in questa situazione. Sì. Ecco, e poi Stefano ci ha rimesso sul gong. Che invece è un'altra parte, perché ogni tanto ci sono dei live. Sì. A proposito di musica, no? Sì, esatto. È nata qualche anno fa la mia idea di integrare il lavoro di Mio Equilibrio con la musica dal vivo, no? Che è una grande risorsa. perché la musica arriva in un modo diretto, no? Anche proprio direttamente sui nostri muscoli, sulle nostre cellule. Quindi ho iniziato a interagire con professionisti come Angela Di Bartolo, che portano appunto il bagno di suoni, quindi il gong, ma non solo, le campane tibetane e altri strumenti che utilizza, insomma. E sentirsi la musica sulla pelle è qualcosa di molto particolare, che va a sciogliere ancora più in profondità le nostre tensioni, arriva ancora più dentro. Possiamo, Stefano, invitare dei suonatori di gong in radio? Certo. Funziona. Cosa nella radio. Mm-hmm. Forse è difficile fare passare il gong dalla porta, adesso che ci penso. Ce ne sono anche di più piccoli. Un piccolo, con un mini gong. Un kit portatile, una valigetta come quelle di Duchamp, con dentro tutti i piccoli strumenti. Quindi c'è tutta una parte di sonorità che sì. Amplifica e diciamo. Ovviamente questa cosa delle risonanze ha un profondo significato anche biologico, perché il nostro corpo è fatto di vibrazioni, no? Cioè noi siamo attraversati all'interno delle nostre cellule, tutto funziona secondo dei ritmi che hanno anche a che vedere proprio con questo moto vibrazionale, per cui sentire questi suoni mette in accordo, fa risuonare, esatto. dalle cellule, dal profondo delle nostre cellule. È come riaccordare uno strumento, no? È uguale più o meno. Si riaccorda il corpo grazie al lavoro miofasciale, ma grazie anche alla musica. Ma ci sono degli studi specifici sulle frequenze di questa musica? Sì, guarda, tutto è partito perché una mia amica biologa che lavora all'Università di Bologna, una mattina prendendo un caffè mi ha raccontato che stavano studiando come le cellule rispondevano a certe vibrazioni musicali. E da lì ho detto, ma allora io devo inserire assolutamente questa cosa nel mio lavoro, no? Quindi c'è una risposta proprio scientificamente provata delle cellule a certe vibrazioni, alla musica 432, no? A certe musiche in particolare. Io non so cos'è la musica 432, tu lo sai che cos'è, Stefano? No, neanch'io, però l'ho vista su YouTube un giorno. Quindi sai che c'è? È una musica che esiste. Ha certe frequenze. Esatto, Mozart usava per esempio questo tipo di musica. Hai capito? Sì. Questo tipo di frequenza sono degli accordi particolari che diversi dalla musica di solito è 4:40 ed è una frequenza che porta più all'agitazione. 4:32 porta invece a un rilassamento profondo e a un riequilibrio proprio armonico psicofisico. Ah, fantastico. Bisogna fare un approfondimento musicale, bisogna tornare sull'argomento con una chiavetta che funziona. Con una chiavetta che funziona. Con degli strumentisti che siano in grado. O se no, con gente che viene a farlo dal vivo. Sarebbe simpatico. Possiamo fare un live radiofonico da Alchemilla. Un live radiofonico da Alchemilla? Sì, non era partita qualche tempo fa questa idea dei live radiofonici. Tu volevi fare, io mi ricordo una delle ultime trasmissioni che ho fatto, volevi fare un live radiofonico a Villa. Non mi ricordo più. A Villa. Una villa Aldini. Qui sui colli, forse Bildini o qualcosa del genere. Ok. Non c'è stata questa cosa. No. Niente, pazienza. No, è che i live sono costosi, per cui il budget di Coxo Spaziale è un po' limitato. È risicato. Però faremo dei live dall'Accademia fra non molto. Anzi, dovevamo farne uno il giorno in cui è venuta giù tutta l'acqua, quando è scesa la Madonna di San Luca, e dunque l'Emilia Romagna si è allagata completamente. e dunque è stato chiuso tutto. Però la faremo. Ce la farete. Sì. Io avevo pensato anche, visto che insegno anatomia artistica, se non fosse il caso di portare Elisa all'interno dell'aula per fare una lezione sulla propria accezione. Anatomia esperienziale. Quest'anno non è successa questa cosa, perché era il primo anno e... Però non è detto, insomma, che se non sarà l'ultimo i miei fortunati studenti potrebbero anche fare questa esperienza. Fantastico. Volentierissimo. Bene. Volentierissimo. Allora, io non ho capito bene come, ma sono le 20:54. E questo è un classico che di Coxo Spaziale. È abbastanza spaventoso. È abbastanza spaventoso. Mi sembra di non aver fatto la trasmissione oggi in qualche modo. Perché tutta la prima metà l'hai passata a speculare. Esatto. L'ho passata a tentare di scaricare questi tre file che comunque abbiamo più o meno ascoltato. ascoltato. E dunque io vi devo ringraziare moltissimo per essere venuti, aver fatto la trasmissione al posto mio. Abbiamo fatto una trasmissione che quasi quasi sembra quella di una vera trasmissione radio. Infatti, grazie al fatto che, non, che io non c'ero praticamente, no? Esatto, quindi tutto sommato questa cosa alle chiavette può essere ha avuto un risvolto positivo. Ma infatti se tu venissi a fare la regia cavolo, io sai che mi sono sempre rifiutata di imparare, perché diversamente da mia non volevo essere poi abbandonata all'interno della radio con te che vai in giro per tutti gli altri posti del mondo, esatto. E non ci sei un lunedì no e l'altro nemmeno. Comunque dovremo ancora fare la puntata con te, Mia e Fedra. Ma dobbiamo fare ancora un'altra puntata con il nostro amico Tiberio, il quale l'altro giorno, quando ha visto che gli ho detto che torna in radio, mi ha lanciato un'occhiata, come dire, ci sono dei sospesi però. Sì. E quindi va bene, anch'io abbiamo già sospeso due... con Tiberio, perché deve assolutamente venire a vedere la mostra di Arianna Scubla da Diacenze. Bene, adesso gli staranno fischiando un sacco le orecchie e domani gli spiegheremo perché. Molto bene. E dunque, niente, ringraziamo tantissimo Elisa Marchiani. Grazie a voi, è stato bellissimo star qua. È stato un piacere averti e poi fotograferemo anche la palla blu, così. Assolutamente, la palla blu così, come il mare. Fatta apposta per questo lavoro, cioè esatto. È stata prodotta apposta. È stato un lungo studio. Esatto, un lungo studio, quindi non sono le palline di Decathlon, sono proprio, cioè anche quelle si possono usare, però questa è una pallina speciale. Speciale, molto bene. Che troverete la fotografia della pallina speciale domani su coxospaziale.blog.com. Esatto, come io potrete anche riascoltare. Oggi io ero Chiara Pergola, dunque. E io invece ero W. Pasquini, Stefano. Questo era Coxo Spaziale e ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo. Lunedì prossimo avremo un trio. Chi sarà lunedì prossimo? No, un trio musicale, non si spoiler. Non però si spoiler. Un trio musicale, per cui se non vanno le chiavette suonano dal vivo loro. Questo è un vantaggio. Naturalmente vi salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che è questa? Che forse che non, non, doveva, è quel, non, non doveva essere non quella. È questa. Allora cambiamo sigla. Cambiamo sigla. Cerco un angolo sicuro. Hai detto tu, serve calma nel futuro. Serve energia, siamo rimasti.